Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Saluto a tutti velocissimi, grazie a Luca Giulio per la regia, l'appuntamento è confermato domenica prossima alla medesima ora. Buona settimana.